E allora eccoci con la staffetta radiofonica in solidarietà con il popolo palestinese e anche oggi andiamo a raccogliere un'altra voce, un altro contributo da parte questa volta di un'interessante iniziativa organizzata dal collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa. O meglio, per essere più precisi, un'iniziativa alla quale anche il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud partecipa insieme ad altri soggetti, insieme ad altre realtà che in Italia si occupano da anni delle problematiche e delle questioni legate appunto alla psichiatria ed all'antipsichiatria. Questa volta, in concomitanza con tutto quello che sta succedendo per l'appunto al popolo palestinese, l'interessante intervento di Sama Jabr, una psichiatra che si occupa appunto delle problematiche del cosiddetto dietro i fronti, tant'è che da qui è il titolo di uno dei suoi libri, Cronache di una psichiatra, psicoterapeuta palestinese sotto occupazione e anche autrice di Sumud, resistere all'oppressione. Sono libri editi da Sensibili alle Foglie che chiunque di voi può reperire, ma direi di passare direttamente la parola a loro per raccontarci non solo la scaletta di interventi che vedranno Sama in Italia dal 14 al 17 di novembre, quindi poco dopo la nostra staffetta radiofonica a fianco del popolo palestinese, e anche un po' per raccontarci di questo interessante intervento, di questo interessante approccio e punto di vista che parte, per quello che riusciamo a capire anche leggendo chiaramente la locandina, dalle riflessioni e dalle analisi del ben più noto e famoso Frantz Fanon, autore del famoso I dannati della Terra. Insomma, a voi per presentare questa interessantissima iniziativa e per parlarcene un po' anche rispetto ai temi affrontati. Ciao a tutte e tutti, grazie mille per l'invito. Sì, praticamente insieme a Sensibili alle Foglie e a dei compagni di Modena, come collettivo antipsichiatra di Antonio Artaud, abbiamo organizzato un piccolo tour italiano di Sama Jabr, che ci sarà dal 14 al 17 novembre. Sama Jabr è una psichiatra e scrittrice palestinese, direttrice dell'unità di salute mentale del Ministero della Sanità palestinese. Praticamente, come dicevi, attualizza il discorso di Frantz Fanon e testimonia della vita quotidiana nella Palestina occupata. E nei suoi libri ci invita a far riflettere su salute mentale, colonialismo e diritti umani. Diciamo subito che sarà molto improbabile avere Sama con noi in Italia, sarà molto difficile. Come ben sapete, c'è una vera e propria guerra in corso in Palestina, i voli sono stati cancellati, non c'è un cessate il fuoco, difficilmente uscirà. Però noi puntiamo a fare un collegamento online con lei, è stata disponibile ed è molto contenta di avere questa possibilità di parlare in Italia sia della situazione attuale, che è molto importante anche per rompere il silenzio dei mass media, sia del suo lavoro. I libri pubblicati in Italia da Sensibili alle Foglie, come dicevi, sono Dietro i fronti e Sumud. Dietro i fronti, il sottotitolo è Cronaca di una psichiatra psicoterapeuta palestinese sotto occupazione, e praticamente si tratta di brani scritti, insomma, interventi fatti, raccolti. Praticamente lei testimonia come il disagio, le difficoltà espresse dai palestinesi non sono un problema di qualcosa che non va nel loro cervello, ma sono sintomi dell'occupazione che diventa quasi patologica. Sama Jabr appunto considera il lavoro clinico alla luce del contesto sociopolitico e analizza il trauma psicologico che vivono i palestinesi, però valorizza anche la solidarietà tra gli oppressi, la capacità di riunirsi in una causa comune. Questi per lei sono elementi necessari per il benessere dell'individuo e della comunità. Quindi prendere parola, far parlare, testimoniare affinché le umiliazioni, le torture, le conseguenze dell'occupazione non rimangano sepolte nel silenzio e non diventano patologiche per chi le vive, dare voce a chi voce non ha e quindi parlare per rompere il circolo vizioso dell'occupazione, del dominio israeliano. Per lei è importante trovare la forza di preservare queste tracce, di far comprendere e condividere queste esperienze anche a noi, perché anche a chi vive in Occidente e chi vive in qualche maniera l'imperialismo occidentale. Quindi è indispensabile trasmettere e ripetere al mondo che di fronte al sistema coloniale la resilienza e la resistenza dei palestinesi è viva. In Sumud, anche in Sumud, ci sono altri scritti, altri testi. Sumud è una parola palestinese per indicare resilienza e resistenza insieme, anche resistenza, perché Sumud appunto esprime anche uno stato mentale, una spinta all'azione. Quindi non significa solamente essere capace di sopravvivere o essere in grado di riprendere forza per gestire e adattarsi allo stress e all'avversità, ma implica anche un atteggiamento di sfida, diciamo, alla sopraffazione e all'occupazione che i palestinesi vivono tutti i giorni. Quindi appunto Sumud è l'insieme di resilienza e resistenza. Grazie Diego, benissimo, e anche veramente interessante anche questa cosa del Sumud, che non saprei in nessun modo coniugare, però resilienza e resistenza sono certo due categorie che ci sembra importante vadano insieme. Forse non è un caso neanche che uno spunto come questo arrivi da una situazione come quella della Palestina. Qui purtroppo questa parola della resilienza l'abbiamo vista svilire troppe volte. Io la collego idealmente la sua circolazione alla pandemia, dove è stata usata moltissimo, ti ricorderai anche te, la resilienza, però intesa forse solo e soltanto come ritorno alla normalità, no? Quindi prendendo a prestito dalla fisica questa capacità dei materiali e intesa come un ritorno alla mera normalità. Invece associata anche all'idea della resistenza probabilmente c'è l'idea di un conflitto, di un tentativo di forzatura della normalità e anche di trasformazione in un senso chiaramente egualitario e progressista, come c'è sempre un po', diciamo, piaciuto. Ti vorrei chiedere, ma come collettivo avete trovato delle affinità rispetto al lavoro che fate? Qual è e cosa, insomma, vi ha interessato del lavoro di Samà? Noi come collettivo antipsichiatrico abbiamo apprezzato i lavori di Samà. Insomma, ci piace e ci ha dato vari spunti di riflessione. Lei parla proprio delle sue esperienze quotidiane sotto occupazione, dietro i fronti, no? Diciamo una seconda linea. Per esempio, non cito da un libro: quando ricevo nella mia clinica delle donne colpite da depressione legata alla violenza di genere, non prescrivo loro un antidepressivo affinché diventino indifferenti alla violenza. Al contrario, lavoro con loro in modo che possano decidere cosa fare in rapporto ai fattori che l'hanno portata alla depressione. Quando incontro un bambino che è stato abusato, la mia responsabilità etica è di informare a proposito di quegli abusi e fare di tutto per fermarli. Per Samà, la resistenza delle donne e degli uomini palestinesi all'occupazione è un diritto umano legittimo che deve essere rispettato e sostenuto dalla comunità internazionale. Praticamente le esperienze cliniche di Samà aiutano a comprendere l'effetto dell'oppressione sulla salute mentale delle persone. Ogni giorno vede anche a qual punto un'autorità professionale è malautorizzata o possa essere complice del potere oppressivo e contribuire a aumentare la sofferenza degli individui, dicendo appunto che i loro problemi sono solo nella loro testa. Per lei, quelli che vengono da lei in clinica non sono solo dei pazienti, perché ogni dolore, ogni lamentela non è un sintomo, ogni crisi non è un disturbo mentale, ma è un problema reale che si vivono. Se i bambini palestinesi che vivono nella stessa di Gaza si fanno la pipì a letto, non è che sono malati mentali, esprimono un disagio, e il disagio è dovuto all'occupazione, alla bomba sulla loro testa, a non poter avere accesso alle risorse, a non poter vivere una vita dignitosa. Quindi piuttosto che etichettare con un codice diagnostico tutte queste difficoltà e disagi, Samà cerca di aiutare le persone a dare un senso alle loro esperienze dolorose, quindi creando con loro un racconto che spieghi, che sia valido e che raccolga gli elementi della loro situazione nel suo complesso, permettendo quindi di cercare di superare i conflitti. Ecco, questo è il lavoro di Samà, è quello che ci ha colpito. Insomma, per noi come collettivo è importante, ci teniamo molto a fare questo incontro. Ti sicuro, Diego, assolutamente, interessa a tutti e tutto, interessa anche a noi, e proprio per questo, al netto di tutte le difficoltà oggettive sui suoi spostamenti e anche purtroppo sui collegamenti, perché sappiamo anche che Gaza è stata di fatto isolata anche dal punto di vista della corrente elettrica, dal punto di vista delle radiofrequenze. Insomma, la situazione è proprio quella di un contesto di guerra, l'hai già detto, lo stiamo dicendo da giorni, è inutile ripeterlo, i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo sanno e sono qui anche per questo. Però ecco, insomma, al netto di tutte queste difficoltà, riassumici per favore il calendario degli appuntamenti previsti, se qualcuno lo volesse seguire e volesse partecipare nella forma che voi proponete, dov'è e quando che può e deve sintonizzarsi? Gli appuntamenti sono il 14 novembre a Roma, al Cessa Intifada, la presentazione dei due libri di Adolfo Antesso Mondo con Sensibile alle Foglie. Il 15 novembre a Roma, alla libreria Sone, con Antonella Elia e Psicatria Democratica. Il 16 novembre, da noi a Pisa, presso la Lomagna della Facoltà di Scienze Politiche, alle ore 18.30, appunto con noi, con il collettivo Psicatria Antonio Artaud, e ci saranno anche i compagni dell'AOR di Scienze Politiche. E poi invece il 17 novembre, Sama sarà a Modena, in Viale 4 novembre, presso lo Spazio Nuovo Idee in Circolo, con Angelo Serafini. Questi sono gli appuntamenti di questo piccolo tour in Italia. Speriamo che riusciamo a averla con noi, insomma, in qualche maniera, o avere un audio, un video, un collegamento. Ok, direi che a questo punto abbiamo detto veramente tutto, il calendario l'abbiamo ripetuto, abbiamo fatto, tra virgolette, un pochino di pubblicità anche a Sama Jabre, alla sua riflessione, un'introduzione al suo pensiero antipsichiatrico, anticoloniale, anticolonialista e antiimperialista per ovvie ragioni, e ringraziamo chiaramente Diego per il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa per questa iniziativa a cui partecipa e di cui sono coorganizzatori, e anche per tutto il resto delle loro attività di solidarietà e di antagonismo, anche come possiamo dire, sociale e nel campo della cosiddetta salute mentale. Lo ringraziamo, ringraziamo tutti loro, salutiamo gli ascoltatori, le ascoltatrici, e rimandiamo la linea alla regia per la staffetta radiofonica al fianco del popolo palestinese.